Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. Buongiorno e benvenuti. Oggi ho invitato a prendere il primo caffè della giornata, se preferite il tè, l'acqua appena caldina, un'amica della nostra trasmissione, la professoressa Alessandra Graziottin. Buongiorno professoressa, grazie per essere con noi. Grazie mille per l'invito, buongiorno a tutti. Direttrice del Centro di Ginecologia San Raffaele Resnati di Milano e presidente della Fondazione Graziottin per la cura del dolore nella donna Onlus. Professoressa, io l'ho invitata perché proprio nei giorni scorsi ho letto un suo articolo molto bello. Io la seguo, la leggo, la tengo d'occhio. Grazie mille, grazie. Ecco, e in cui parlava di autoprotezione. Mi è piaciuto molto perché lei ha parlato di autoprotezione come un gesto di attenzione, di rispetto, d'amore per sé e per gli altri. Assolutamente sì. E le due grandi autoprotezioni, però ci stiamo tutti concentrati su una, che è quella dei gesti barriera, della mascherina, ma ci siamo dimenticati dell'altra autoprotezione, che entrambe sono un gesto di rispetto, prima di tutto per il nostro migliore amico, che è il nostro corpo. E questa è una cosa poco percepita. Significa aver cura della propria salute, che è in assoluto il bene più prezioso. Cosa fai per dimostrarlo? Comportamenti invece che chiacchiere. Noi abbiamo montagne di chiacchiere, ma pochi ancora hanno percepito questa mascherina benedetta, e poi entreremo sull'altro gesto di autoprotezione e di protezione dell'altro, come una simpatica, gentile routine, come ci laviamo i denti alla mattina, ci pettiniamo, è un sorriso che noi diamo all'altro, perché se gli occhi sorridono, le mascherine, che sono bellissime, colorate, eccetera, eccetera, diventano un modo per dire ti voglio bene, mi voglio bene. Dobbiamo proprio capire che proteggendo me, proteggo anche l'altro. Esatto. Che siamo due facce della stessa medaglia, non possiamo cancellarne una, anzi, in quella visibile mettiamo la mascherina. Mettiamola però, professoressa Graziottin, mettiamola bene. Io vedo un sacco di persone che hanno la mascherina con il naso fuori, o hanno la mascherina per sorreggere il mento, o ancora per intorno al collo, o insomma a bandana. Non serve metterla male, bisogna metterla bene. È per quello che insisto che potremo farlo molto meglio, in maniera coerente, quando usciamo e poi tutto il giorno, ma in maniera, insomma, faccio il medico, posso anche tenerla, o 12 ore al giorno, non muoio, è diventata un'abitudine e talmente sto attenta che ne ho sempre di riserva, perché magari una si macchia, perché magari si rompe un laccetto, perché va per la pesca, perché? Perché è inutile che io parli se i miei comportamenti non sono coerenti con quello in cui credo. La coerenza, appunto. Quindi tutti sono d'accordo con lei, possiamo farlo molto meglio. Devo avere capacità personale di giudicare le distanze sociali, non devo avere il vigile a ogni incrocio che mi dice signora si mette la mascherina o signore si mette la mascherina. Professoressa Graziottin, sicuramente qualche amica o qualche amico che ci sta ascoltando si sarà detto ok, l'ho presa stamattina, dai che vado e me la metto. Scrivetecelo, vi abbiamo fatto una sorta di memo. Professoressa Graziottin, il principio di autoprotezione ha molte altre declinazioni. infatti, in quell'articolo che lei gentilmente citava, io ho messo insieme due autoprotezioni che per ora non ho ancora visto assimilate, e cioè la mascherina, d'accordo, per quanto riguarda i virus respiratori. Ricordiamoci che con una mascherina noi faremo una prevenzione, mi permette di dirlo, anche per la prossima ondata di influenza, non solo il secondo Covid. E la combinazione di due virus respiratori può darci problemi molto più seri, perché tra l'altro sono tutti e due virus a RNA, quindi possono anche ricombinarsi, darci delle varianti insidiose. Allora noi tutti i virus respiratori, i batteri respiratori, li preveniamo con la mascherina, perlomeno in buona percentuale. Quindi ricordiamocelo che ci proteggiamo e proteggiamo gli altri non solo dal Covid, ma da molte altre infezioni respiratorie autunnali e invernali. L'altra protezione invece vale per tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili, di cui non parliamo più, trattiamo la monomania sul Covid. Esatto. Allora io dico, l'altro gesto barriera, purtroppo nettamente in riduzione d'uso, è il profilattico. E sul profilattico voglio citare quella frase che viene sempre detta, che è tremenda. Se lei dice ti metti il profilattico per favore, lui di regola risponde: perché non ti fidi di me? E io dico che la questione sulla fiducia è molto torbida, perché sposta il livello. E allora alle mie ragazze dico, la risposta è questa: ma tesoro, io di te mi fido moltissimo, moltissimo, totalmente, però siccome il virus e i germi patogeni sono più furbi di te e di me, il profilattico te lo metti. Se non vuoi metterlo, fa niente, andiamo a mangiarci un panino o ci corteggiamo diversamente, però senza profilattico non si fa, perché io valgo, tu vali. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Professoressa Graziottin, quindi autoproteggiamoci, ritorniamo al messaggio iniziale, l'autoprotezione è un gesto d'amore per sé e per gli altri, ma al tempo stesso, professoressa, noi dobbiamo imparare a conoscere alcuni sintomi e segnali che non vanno trascurati, non bisogna perdere tempo, non bisogna allarmarsi, ma bisogna parlarne con il proprio medico curante. Quali sono? Sintomi principali. Allora, se io ho una perdita giallastra dall'uretra maschile, potrebbe essere un gonococco. Nella donna dà dei sintomi tipo vaginite banale, ma nel dubbio rivolgersi al medico. Poi, raccomando a uomini e donne il controllo annuale dall'urologo andrologo, in modo che ci sia comunque un monitoraggio adeguato. Agli uomini, attenzione a quelle piccole verruche che una volta venivano chiamate creste di gallo e che hanno il segno di quelli molto promiscui, che non era una medaglia al valore, anzi vuol dire che questo è un untore, perché si porta tanti virus papillomavirus. Nella donna possiamo avere questi piccoli condilomi o grandi condilomi o giganti condilomi a seconda del livello di infettività e del livello delle difese immunitarie della signora. Nei genitali esterni possiamo averli all'interno della vagina, avremo un pap test che ci dice qualche cosa. Voglio però sottolineare due cose: uno, che se avete una ulcera dura non dolente sui genitali, attenzione, quella può essere sifilide, non ci si pensa più, ma in realtà la stiamo rivedendo. Due, ricordiamoci che molto spesso, soprattutto nella donna, per esempio la clamidia è poco sintomatica, quasi niente, però mi può dare poi una infertilità oppure addirittura un'infezione delle tube importanti con una pelvi peritonite e dolore cronico. Quindi il discorso di dire aspetto il sintomo, oppure se lui non ha sintomi allora vuol dire che non ha niente, no, perché dobbiamo tenere presente A, che molte malattie sono pauci sintomatiche, ci danno pochi sintomi; due, che me li possono dare nella seconda o terza fase dell'infezione. Quindi per esempio io posso avere un'artrite da gonococco, non è che sta solo sui genitali, posso avere un'infezione della placenta da papillomavirus, non è che mi sta solo in vagina il virus. Quindi teniamo anche presente che le infezioni genitali si trasmettono poi potenzialmente a tutto il corpo, e quindi ecco perché possono minare la salute in generale. Generale proteggersi, sì. Autoproteggersi è un gesto è un gesto d'amore, insisto, di attenzione e di rispetto. Professoressa Graziottin, grazie, torni prestissimo a trovarci, le auguro una buona giornata.